C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni e Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più in giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo, che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e ti addormenti di sera, se dormi che dormi e che sogni che fai. È stucchevole, De Gregori. Madonna, mamma mia. Poi cantata da te proprio. Chiedo asilo. Niente, si è disgregato tutto, K. Il mondo che conoscevamo anche solo fino a due mesi fa, due anni fa, due giorni fa, si è disgregato. Sarà vero che tra otto giorni finisce davvero tutto? Non si sa, no? E questo è il bello. E poi comunque otto giorni, Drago. Cosa, otto giorni? Ma otto giorni sono lunghissimi! Otto giorni! Minchia, tre anni! Sono lunghissimi! Tre anni cosa? Non è che se aggiungi delle S a lunghissimi, ma certo, i giorni sono lunghissimi. Da passare, vabbè, anche passare sì. È più di una settimana in quindi? Pratica, no? Più di una settimana. E allora? Con tutte le menate di ogni giorno, la sua malattia psicosomatica, ogni giorno il venerdì. Io non ho ogni giorno una malattia diversa, io ho l'otite fissa da tre giorni che invece io oggi ho l'orticaria del giovedì. A me l'orticaria ormai viene solo quando vedo Santoro in TV. Stasera, proprio, stasera sì, temo di sì, perché X Factor ahimè è finito, quindi finito. Mi tocca ripiegare sul servizio pubblico, quasi quasi rimpiango Formiglia. Ma dai, ma tu che rimpiangi Formigli? Formigli, ti giuro. Ma se quando lo vedevi ti veniva voglia di tirare la bottiglia di dolcetto in televisione? Proprio so. Nella televisione, nel televisore. Oh, si dice così. Però quando vedo Santoro, ormai... Ti viene voglia di tirargli cosa? Semplicemente mi viene voglia di spegnere la TV, hai capito? Lì è peggio, per Santoro è peggio. Infatti è peggio, vero, se gli spengo la TV in faccia piuttosto che se gli tiro la bottiglia nel mio televisore, che farebbe un danno a me, sì, giusto? Sì, in termini di ascolto è peggio, però se sposti la stessa situazione, prova a immaginare, dal vivo, cioè tu vai lì in studio da Santoro e gli tiri una bottiglia, sì, è molto meglio che se... non gli tiri la bottiglia. Cioè, ma per lui cioè, è per meglio lui... se non gliela tiro. Per lui è peggio se gliela tiri. Beh, allora in quel caso tirerei la bottiglia se fosse. O una miniatura del maschio angioino. Vabbè, no? Sì. Puoi scegliere. Certo. Sì. Certo. Sì. Comunque il problema non è nemmeno Santoro, poverino. Che ne può lui? Il problema è molto più complesso. Prendi le primarie del centro-sinistra, no? Ma ancora? Ma sì, guarda che sono state molto importanti. Ti spiego anche perché. Ha vinto Samuele Bersani. Lo so. Spacca, spacca, vabbè, spacca. Parte, bravo, il cuore. No? A parte i midi che usa come base. Così, sì, però per il resto, dai, bravino. Dai, allora ti spiego perché ha vinto Bersani e ti spiego anche il perché questa cosa è importantissima per il futuro. Dai, e parlo spiegami. Sul serio stavolta. Dai, allora, dai. Pensiamo ai due finalisti delle primarie, sì, no? Del ballottaggio. Sì. Sì, ce n'era uno, Renzi, che era giovane, era sveglio, mediamente simpatico, preparatissimo dal punto di vista della comunicazione, si è fatto il giro di tutti i programmi televisivi, ha mantenuto lo stesso look per tutta la campagna elettorale proprio per fidelizzare i seguaci, certo, ha letto così. E riletto mille volte lo stesso discorso arguto, pieno di battute riuscite, scritte bene, tutto certo. Quanto. E poi c'era l'altro, che era Bersani, appunto, che non era più tanto giovane, era pelato. Parlava con l'accento da salumiere piacentino, era del tutto inadatto alla comunicazione moderna, era scarsissimo su Facebook e Twitter. Ebbene, ha vinto quello pelato e scarso su Twitter, quindi mi viene il dubbio, non è che in Italia ci siamo semplicemente rotti le palle di un certo tipo di comunicazione? Renzi aveva Gori alle spalle. Più che alle palle, sì, appunto, però l'ha fatto perdere. Scusa. Vabbè, ma Gori è il migliore, è quello, cioè, è quello che fa risplendere con le sue lucine magiche la realtà, capisci? Appunto, hai capito? La gente si è stufata delle lucine. Ma adesso che è Natale! Insomma, è Natale. Che cosa farai? Pure e maiale ti ingozzerai, tortelli ripieni, bolletti e tartare, quattro e panettoni e poi caffè al bar. Allora è Natale. da due mesi già, volendo ascoltare la pubblicità. Evviva il Natale, che ci porterà con noia mortale. Buon Natale a chi non ce l'ha, è un Natale normale a chi ce l'ha già, un Natale speciale, un Natale così, con piccole cose che finiscono qui. Poi Natale, sempre bisogna vedere sempre se ci arriviamo a Natale, capa, perché, già, perché in teoria quest'anno niente Natale. In teoria niente. Ci si arriva vicini, ma poi finisce tutto. Allora, cos'è tutta l'agitazione che c'è in questi giorni nei negozi? Io quali agitazioni? Drago, le uniche agitazioni che si vedono in questi giorni sono quelle dei lavoratori licenziati, quelli messi in cassa integrazione, sono quelli che si agitano. Sì. Nei negozi proprio sono tutti tranquillissimi. Adesso che ci penso, quasi dormono. Scusa, dover dire addio a tutto proprio prima di Natale non è mica una bella cosa, dai. Quest'anno però avrebbero dovuto anticipare il Natale al 20 dicembre, cioè visto che finisce il mondo. Ma non si può, non è mica facciamo... come la Pasqua, no? Alta, bassa, media. Ebraica, non ebraica. No, Natale è Natale, Natale, no? Natale. Succede sempre la stessa data, Drago, il 25 dicembre. Tanto io non ho ancora comprato i regali, mi sa che quest'anno salto. Ma certo, no? Però se il mondo non finisce... Ancora 3 giorni prima della vigilia, no? Ma i prezzi saranno alle stelle. Vale la pena rischiare, no? Una forma di superstizione anche. Dici, magari se non compri i regali, il mondo non finisce, sono costretto a comprare i regali. Tu aspetti, insomma. Sì, aspetto, sicuramente. Sì, sì. Quindi, se tutti la pensano come te, dopo il 21 dicembre, se il mondo non finisse, cosa improbabile, ci sarebbe la corsa in massa agli acquisti, un casino. Direi di sì, proprio sì. Quindi fatturati che schizzano in alto. Certo, sì. E che. Ma scusa, ma non è che sta storia della fine del mondo è solo un'operazione di marketing? Boh, il marketing ha fatto tanti danni, è vero, però non penso che quelli del marketing arriverebbero a far credere al mondo intero che la fine è vicina solo per approfittare poi dell'attimo dopo, di euforia, in modo che tutti comprano, insomma. Ma guarda che quelli del marketing sono capaci di tutto, Anzi... Quelli del marketing sono capaci di tutto. Ah già, la nostra generazione, Drago, l'ha rovinato due cose, l'AIDS e il marketing. Che sono due virus, tra l'altro. Infatti, due cose virali che fanno male alla persona. L'AIDS fa male dal punto di vista fisico, mentre il marketing fa male dal punto di vista fisico, dell'anima, fisico. Cosa c'è? Ho detto anima. Hai detto anima. Vabbè, prima ho detto fisico. Cosa sarà mai? Scusa, hai il copyright su certe parole? Evidentemente sì, lassù lui, sai. Vabbè, comunque diciamo tutto. Che il corpo e lo spirito della nostra generazione sono stati minati dall'AIDS e dal marketing. Vabbè, ma perché le generazioni più giovani invece sono più sane di noi? Cioè hanno qualcosa. Loro sapevano dell'AIDS intanto e hanno praticato l'astinenza. Vabbè, quella cresce sempre. Anche negli ultimi sondaggi la percentuale di astenuti è cresciuta fino quasi al 30%. Vabbè, invece visto che non ci sono preservativi che ti proteggono dal marketing, quello se lo sono beccati anche loro. Ma quindi anche i più giovani sono cresciuti da astinenza, preservativi e marketing. Certo, in pratica. Che culo. Almeno noi, insomma. Noi AIDS e marketing. Sì, però l'AIDS io per fortuna. No, nemmeno io. Quindi meno male che non ci siamo astenuti. Cosa dici? È andata bene. È che poi il voto è un diritto, cioè, ma anche un dovere. Quindi astenersi non è mai bello, dai. Mancano. No, non diceva te. Sto cercando di fargli dire otto. Tipo, sta giù. Oggi un cane, brutto cane. Oggi brutto cane. Brutto cane. Giorni alla fine del mondo.